Accendiamo grande, sembra un elefante, viaggiamo come su un atlante. Non fare domande, ne fumo una, ne fumo due. Guarda che passo queste giornate uguali alle tue. Dalle persone alle paure, oggi non c'è il sole, frate mi sa domani neppure. Siamo il fumo che esce dal tombino, la frase da evidenziare, una macchina rossa che sfreccia in corsia preferenziale. Siamo un occhiale di moschino, la scarpa che non puoi trovare, quei ragazzi in stato confusionale. Quando entriamo dentro al posto guardaci le facce. Ehi, scusa, guardaci le facce. Perciò ci prendiamo tutto senza dire grazie. Poi ritorniamo nelle piazze e l'accendiamo grande.